Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e bentrovati da Giulia Crivelli alla nostra rassegna stampa europea, dove cerchiamo di parlare di temi europei, soprattutto pescando sui giornali appunto dell'Unione Europea. È il tema forse più importante di questi giorni, anche più delicato, quello dell'Ucraina, quello che sta succedendo in Ucraina, una protesta così nata un pochino in sordina, forse sottovalutata sicuramente anche dai vertici dell'Unione Europea, che adesso invece si sta molto complicando. Ne parla per esempio il quotidiano Karjalainen, ucraino appunto, che sostanzialmente scrive che le manifestazioni non sono più concentrate come all'inizio soltanto nella capitale Kiev, ma si sono diffuse nell'Ucraina orientale, dove solitamente il presidente, questo strano personaggio, strano per noi da decifrare, questo Viktor Yanukovych, che vuole restare in bilico tra l'amico Putin e l'Unione Europea, cercando di trarre il meglio dei due mondi, ma la strategia per ora non gli è riuscita perfettamente. Comunque scrive appunto Karjalainen, nell'Ucraina orientale c'era un forte sostegno per il presidente, adesso però i manifestanti anche in quelle zone ne chiedono le dimissioni e chiedono elezioni anticipate. Non è una strada semplice, perché Yanukovych è un presidente legittimamente eletto. L'Ucraina appunto era stata ammessa ai negoziati proprio perché dal punto di vista democratico aveva, diciamo, le carte in regola. I manifestanti quindi devono dimostrare abilità diplomatiche, spiega, ma non sono un'opposizione unita, come spesso accade. Queste manifestazioni spontanee di protesta poi non hanno un coordinamento abbastanza forte. E addirittura, e naturalmente è una cosa che speriamo tutti non succeda, ci sarebbe un rischio all'orizzonte di guerra civile. Gli eventi degli ultimi giorni li sappiamo, insomma. Yanukovych si è anche dato malato, ha detto di avere ha chiesto un congedo per una malattia respiratoria acuta, lo hanno citato parecchie agenzie. Insomma, la situazione è molto difficile da comprendere da qui e anche abbastanza imprevedibile, quindi osserviamola, continueremo a farlo da vicino. Passiamo alla Germania con, lo sapete, uno dei miei quotidiani preferiti, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, questa austera signora che negli anni si è un po' sgrigita, però che è ancora appunto un quotidiano dove c'è molto spazio per il testo, per gli approfondimenti, un pochino meno per le foto, le infografiche e le bizzarrie varie. In questo nell'articolo che vi cito è un'intervista al presidente della Repubblica Tedesca Joachim Gauck sull'immigrazione. L'immigrazione naturalmente è un tema sempre di attualità, ovunque, in qualsiasi paese. La Germania è un paese che negli anni ha accolto tantissimi immigrati, anche dall'Unione Europea, ma anche per esempio dalla Turchia, è all'avanguardia nell'aver cercato di integrare i Gastarbeiter che venivano dalla Turchia. Spiega Gauck l'arrivo di immigrati anche appunto da questi nuovi paesi che fanno tanta paura ad altre nazioni come la Gran Bretagna, ne abbiamo parlato, quindi paesi immigrati che vengono per esempio dalla Polonia. Questi immigrati fanno bene alla Germania, mentre sono le spinte populiste ed estremiste che invece fanno male e che per ora, secondo Gauck, speriamo che non sia solo una sorta di wishful thinking, sono marginali. Il presidente spiega che esistono certo queste correnti, ma non sono forti, e non vedo alcun segnale, ha spiegato la FAZ, che indichi un loro rafforzamento nel prossimo futuro, perché nel paese, in Germania, esistono una società civile vigile e politici e media impegnati nella lotta contro l'estremismo e il populismo. Gauck mette in guardia contro chi agita timori riguardanti l'immigrazione, perché è sbagliato e pericoloso per la pace interna suggerire che gli immigrati danneggino il paese, portino via posti di lavoro o minaccino il nostro sistema sociale. È giusto invece dire chiaramente che l'immigrazione ha fatto e fa molto bene a questo paese, perché ci regala una molteplicità culturale. Riguardo alle recenti polemiche, appunto parlavamo dei polacchi, ma ci sono anche state quelle sugli immigrati di bulgari e romeni, il capo dello Stato tedesco ha sottolineato che molti di loro cercano un lavoro regolare per mantenere le loro famiglie e vivere in pace. E purtroppo i Rom continuano a rimanere in Europa una minoranza discriminata. Passiamo a un altro argomento di cui ci siamo occupati e a volte ha degli aspetti un po' quasi divertenti, che è quello degli OGM. Ce ne siamo occupati in passato, ora se ne è occupato questa settimana anche Financial Times, perché sarebbe in Gran Bretagna e sarebbe arrivato questo pomodoro rosa, quindi non rosso ma rosa, non perché non tanto maturo, non perché così non maturato a un sole abbastanza mediterraneo, ma perché volutamente rosa, ha dei geni che gli dicono di essere rosa. E è stato sperimentato sui gatti, spiega Financial Times, che naturalmente si addentra anche nelle questioni che a livello europeo dovrebbero regolare gli OGM, ne abbiamo parlato proprio 2 settimane fa. Scrive Financial Times, 2000 litri di succo di pomodoro rosa geneticamente modificato stanno per sbarcare in Gran Bretagna e gli ambientalisti sono sul piede di guerra. Si tratta di uno dei progetti del gigante delle sementi Monsanto, una nuova varietà di pomodori che prendono il nome dalla particolare colorazione che assume una maturazione che, secondo il produttore, secondo Monsanto, questo colosso americano, vantano alcuni vantaggi rispetto ai pomodori tradizionali. Per esempio, hanno proprietà antinfiammatorie legate alla presenza di alcune molecole normalmente presenti nei mirtilli e nei ripes. È sicuramente appunto una questione molto controversa perché unisce aspetti culturali, diciamo, ad aspetti scientifici di cui non tutti possiamo essere ferrati, però io cerco sempre di ricordare che è vero, OGM è un neologismo, però qualsiasi organismo in natura è di fatto geneticamente modificato, è stato geneticamente modificato dall'evoluzione. Non voglio dire che non si debbano avere regole, controlli, eccetera, ma neanche troppe paure, perché ci possono essere, se le aziende vengono controllate anche. In questo caso, per esempio, dalle istituzioni europee ci possono essere dei grandi vantaggi nell'utilizzare alcuni tipi di mais geneticamente modificati appunto proprio direttamente dall'uomo e non magari con i tempi della natura che sono molto più lunghi. A proposito di polemiche, ne abbiamo parlato anche sui giornali italiani, però vi cito l'articolo originale, in questo caso è un articolo che è rimbalzato dagli Stati Uniti in Unione Europea, è un articolo uscito sul New York Times e riguarda il nostro olio d'oliva e anziché indicarlo con una bella oliva o non lo so, con un olivo o un ramoscello d'olivo, il New York Times ha illustrato il suo articolo con un teschio che però in realtà la parte ovale era appunto un'oliva e poi c'erano due ossa incrociate. Secondo il New York Times, che ripeto ha innescato una serie di reazioni istituzionali ma anche nei media europei, ci sono dei fortissimi rischi di adulterazione dell'olio. Anche perché l'olio che viene esportato, per esempio negli Stati Uniti, è definito olio extravergine o fatto in Italia o fatto in Spagna o in altri paesi europei specializzati in questo tipo di prodotto, poi in realtà viene magari adulterato, quindi non è così extravergine di oliva come si vuol far credere, come spesso anche servirebbe a giustificare il prezzo, perché comunque l'olio d'oliva è un prodotto molto prezioso sulle tavole straniere. Secondo infatti il New York Times, addirittura il 69% dell'olio d'oliva che arriva negli Stati Uniti è compromesso. Queste critiche sono state recepite e discusse. Sicuramente la polemica non finisce qui. Il rischio, se ne è parlato anche in passato, c'è, esiste. Quindi forse il New York Times ci ha un po' suonato la sveglia e forse sarà l'occasione per riprendere seriamente questo argomento. Vi segnalo poi un articolo su Euronews, altro argomento caldissimo sempre in Italia, quello delle pensioni. Euronews spiega come l'Unione Europea abbia a questo punto ufficialmente denunciato l'Italia per l'inadeguatezza delle nostre pensioni. Le pensioni minime italiane infatti non garantiscono pari diritti rispetto al resto della popolazione. Inutile dire che parliamo delle pensioni delle persone normali, non quella minima parte di cosiddette pensioni d'oro guadagnate rispetto a un sistema che non è contributivo, non è equo, eccetera. Ne abbiamo discusso tantissimo. Comunque vi leggo quello che appunto scrive Euronews. Le pensioni italiane non basta, doveva dirlo l'Europa. Un organo superiore doveva vigilare e riscontrare, puntare il dito contro l'inadeguatezza, come se non bastassero le invocazioni di aiuto, le famiglie, le persone che dichiarano e svelano, oltre ogni pudore, il dolore di non poter badare a se stessi dopo una vita di lavoro. Il Comitato per i diritti civili del Consiglio d'Europa ha rilevato l'anomalia, dichiarando che la legislazione italiana non è in grado di garantire agli anziani lo stesso tenore di vita del resto della popolazione. Dal rapporto che è stato presentato, il governo italiano viene palesemente meno a ben 7 norme della Carta Sociale sociale europea. La carta, questa carta, è una convenzione firmata da 47 paesi, a cui l'Italia, pensate, aderisce dal 1961 ed è stata rivista nel 1996. Tra l'altro i dati analizzati sono molto recenti, non sono così antichi, sono dati che risalgono al periodo tra il 1 gennaio 2008 e il 31 gennaio 2011, usando appunto questi parametri messi appunto dalla carta sociale. So che non era una buona notizia con cui concludere la nostra breve rassegna, però è importante, sarebbe veramente una delle riforme di cui tanto si parla, di cui che tanto è stata annunciata, quella delle pensioni, ma fatta in modo serio ed equo davvero, che forse darebbe veramente una svolta a questo paese. Era quindi l'ultima segnalazione per questa settimana. Vi auguro un ottimo sabato e un'ottima domenica da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.